Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori, questa sera parliamo di educazione finanziaria a scuola. Questo è il titolo di un libro che ha come sottotitolo Per una cittadinanza consapevole, è curato da Enrico Castrovilli che abbiamo in linea. Buonasera Castrovilli. Buonasera. Enrico Castrovilli è presidente dell'Associazione Europea per l'Educazione Economica in Italia e con noi questa sera anche Roberto Fini. Buonasera Fini. Buonasera. Docente di economia politica e di didattica dell'economia politica alla Facoltà di Economia dell'Università di Studi di Verona e di Vicenza. Allora, perché un libro sull'educazione finanziaria? Perché si deve parlare di educazione finanziaria a scuola adesso? Io lo chiederei a Roberto Fini. Il libro nasce dalla necessità di parlarne a scuola e non solo a scuola. L'educazione finanziaria in genere, non solo in Italia, ma in particolare in Italia, è molto bassa, non tanto perché non si insegni nelle scuole superiori e all'università, quanto per il fatto che una cultura finanziaria o economico-finanziaria non è diffusa. Le classifiche internazionali da questo punto di vista ci trovano molto indietro. Io non so se credere a queste classifiche internazionali perché non tutte sono fatte in maniera accurata. Però certo che siamo in ogni caso, al di là della fonte, siamo molto indietro. Ecco, questo libro vuole in fondo fare un ulteriore passo in avanti, siamo molto indietro, qualcosa si sta facendo, tra l'altro sottolineo che questo libro è composto di molti saggi, tra gli altri c'è un saggio di Ignazio Visco sull'educazione finanziaria di fronte alla crisi. Ignazio Visco è diventato negli ultime settimane governatore della Banca d'Italia, c'è un saggio di Elsa Fornero, scritto probabilmente prima che diventasse ministro del lavoro, l'educazione al risparmio previdenziale, e ci sono appunto molti saggi su tutti gli argomenti che riguardano l'economia e la finanza. Ecco, in questa prospettiva, in questo cammino pur difficile, chiedo al curatore del libro, Enrico Castrovilli, si stanno facendo dei passi in avanti? Ma io spero e penso di sì, nel senso che dai tanti incontri che stiamo facendo, vedendo nelle scuole, riscontriamo innanzitutto un atteggiamento positivo da parte dei ragazzi e delle scuole. C'è attenzione, voglia di capire. Anche in scuole dove non è minimamente previsto l'insegnamento della finanza o dell'economia, come nei licei, negli istituti industriali, ragazzi chiedono, hanno ovviamente una valutazione abbastanza critica della situazione finanziaria delle banche, ma comunque vogliono fondamentalmente capire in cosa consistono i risparmi, la moneta, le banche, le borse, gli andamenti dei titoli. C'è, direi, una buona consapevolezza del legame che intercorre tra la finanza e la vita, che l'educazione finanziaria quindi non debba consistere nell'apprendimento di nozioni astratte, direi che è un dato positivo acquisito. Ecco, in questo senso forse bisognerebbe educare di più gli educatori, Castrovilli. Infatti, questo è uno degli scopi del libro, nel senso che noi l'abbiamo proprio pensato per le scuole, gli insegnanti, gli educatori in generale, anche per un ragazzo o una persona adulta che voglia prendere in mano e capire bene appunto la finanza in cosa consiste. Qua stiamo parlando del legame tra gli avanzi e i disavanzi di mezzi di pagamento che molto spesso intercorrono nella vita. E il tema è un argomento che dura nella vita, quindi il problema importante è che se si comincia a scuola, poi nel corso della vita, quando la finanza entrerà ancora di più nel contesto delle proprie scelte, le persone faranno queste scelte meglio. Quindi partire dalla scuola, partire dal fatto che gli insegnanti, le scuole prendono in mano questi progetti, può dare buone ricadute, non soltanto per avere un voto migliore a scuola in più, non è questo il problema. Certo. E comunque questi progetti si stanno sviluppando nelle scuole elementari, nelle medie e neanche nelle scuole superiori. È un arco ampio di temi e di progetti. Ecco, Roberto Fini, in questa prospettiva la crisi economica che tutti noi stiamo vivendo sicuramente è qualcosa che sollecita anche un interesse, una maggiore conoscenza, una ricerca anche di capire un po' meglio, quindi ci può essere una connessione tra la crisi economica e il desiderio di uscire un po' dall'ignoranza economica da parte delle persone e dei giovani soprattutto. Roberto Fini. Sì, direi di sì. La crisi economica sollecita delle domande. Una parte non piccola della crisi economica è anche dovuta a una scarsa attenzione ai meccanismi economico-finanziari da parte delle persone. Non è solo questo, evidentemente, la crisi economica naturalmente ha radici molto più profonde, però certamente, come è stato rilevato più volte, non comprendere qual è la differenza e la portata di questa differenza, per esempio, fra tassi fissi e tassi variabili quando si chiede un prestito, questo per esempio è un elemento che ha provocato, soprattutto nella prima parte della crisi economica, ha provocato grossi problemi alle persone, ai singoli, quindi un economista direbbe a livello micro, e poi complessivamente a livello macro. Anche perché, professor Fini, adesso appunto i mezzi di comunicazione, i mezzi di informazione, pensiamo a internet, ai social network, danno appunto anche e soprattutto ai giovani, direi, che sono posto interessati a questi strumenti, delle possibilità enormi che però vanno guidate, vanno indirizzate, vanno criticamente osservate, professor Fini. Certo, sì, sono d'accordo. In generale, come sappiamo, c'è un flusso informativo enorme rispetto al passato, e questo flusso riguarda anche gli aspetti economico-finanziari. Il problema è che se c'è di base una scarsa conoscenza, una scarsa propensione alla conoscenza di alcuni temi, il fatto che siano presenti su internet, sui social network o sui libri non è evidentemente sufficiente. È necessario formare una consapevolezza della necessità di questi temi e anche fare in modo che le persone siano in grado di capire quali sono gli aspetti fondamentali della struttura economica e poi delle decisioni economiche che ognuno si trova a prendere nel corso della sua vita. Ecco, nel libro sono riportate e spiegate delle iniziative, pensiamo a quella del consorzio Patti Chiari di divulgazione economica, che possono offrire alle scuole delle possibilità di approfondimento della realtà economica. Professor Castrovilli, ma le scuole sono pronte a realizzare progetti di educazione economico-finanziaria? Ma noi stiamo vedendo che le scuole che li adottano si dimostrano fondamentalmente pronte. E se lo sono queste, io penso che possano esserle tutte le scuole pronte. Ma comunque, appunto, rispetto alla questione che il libro offre qualcosa in più, volevo ricordare che è stato redatto coralmente con la collaborazione anche dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, lo stesso Ministero, la Direzione degli Ordinamenti ha presentato il libro, e poi c'è una coralità di interventi che arriva dalla Banca d'Italia e in questo caso in ordine alfabetico da ANASF, Dolceta, Forma per Patti Chiari, Forum Ania Consumatori, Junior Achievement, Intesa San Paolo con il quotidiano in classe, l'Osservatorio sul Credito. Patti Chiari in particolare ha molto aiutato alla redazione del testo, e ci sono anche delle indicazioni operative per le scuole, quindi credo che ci possa essere molto per fare bene il gioco di squadra nelle scuole, tra gli insegnanti, con i ragazzi, idee, materiali. Bisogna avere voglia di farlo. Volevo segnalare che un'analoga impostazione stiamo adottando per un grosso progetto col Ministero per il rafforzamento del liceo economico-sociale, che però è solo una piccola parte dell'ordinamento scolastico. Professor Fini, possiamo sperare di uscire meglio, e poi magari anche il professor Castrovilli rapidamente, perché siamo in conclusione, di uscire meglio dalle prossime statistiche, le famose statistiche PISA sull'educazione finanziaria e sul livello di educazione d'Italia. L'Italia ne è uscita un po' male negli ultimi tempi. C'è prospettiva di uscirne meglio? Che significato hanno queste statistiche, professor Fini? Le statistiche, come dicevo prima, non sono mai molto accurate su questi temi. Il problema di fondo, secondo me, è che comunque, al di là del posizionamento dell'Italia, in linea generale i paesi che dovrebbero avere una maggior conoscenza economica sono invece piuttosto indietro. Possiamo sperare di migliorare la posizione? Sì, ovviamente sperare va sempre bene, è chiaro che bisogna operare in questa direzione, bisogna fare in modo che vengano approntati quegli strumenti, io direi soprattutto a livello di media da una parte e a livello di scuola dall'altra, perché progressivamente, io non credo che da un anno all'altro le cose possano cambiare, ma progressivamente si possa migliorare. Professor Castrovilli, su questo tema? Dunque, innanzitutto è la prima volta che si tengono le prove OCSE PISA sulla Financial Education per i quindicenni in 19 paesi e tra poche settimane quindi anche in Italia. Sono interessanti perché tra l'altro suggeriscono un curriculum implicito alle scuole e si svolgeranno su contenuti, processi, contesti, ma anche su fattori non cognitivi. E siamo molto contenti, tra l'altro, che la responsabilità a livello internazionale di queste prove sia di una professoressa italiana, Anna Maria Lusardi, che lavora a Washington e a Dartmouth College, che ha presieduto il gruppo di lavoro dell'OCSE. In dicembre avremo i risultati, quindi bisogna aspettare un poco, ma intanto lavorare per migliorare la scuola. Vedremo come saranno questi risultati, speriamo che siano positivi. Abbiamo bisogno di occuparci dell'economia, abbiamo bisogno di persone che si occupano di economia, perché come si diceva una volta, se noi non ci occupiamo di economia, comunque l'economia si occupa di noi. Grazie a Enrico Castrovilli, che ha curato il libro Educazione finanziaria a scuola, insieme a Roberto Fini, docente di economia politica all'Università di Verona e Vicenza. Il libro, lo ricordo, edito da Guerini e Associati, Educazione finanziaria a scuola per una cittadinanza consapevole, sono 280 pagine, un libro che è anche un manuale di divulgazione economica, non solo operativo per le scuole, ma come si diceva può essere interessante anche per capire meglio come funzionano i meccanismi di fondo dell'economia, costa 19,50 euro. Grazie a chi ci ha ascoltato, così come ringrazio Luca Cremonese, Stefania Tagliaferri in redazione e Peter Bascapè in regia. Grazie, l'appuntamento con Economia in Pagina per sabato prossimo.